English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera incontriamo una vecchia amica, una con cui ci piacerebbe andare ogni tanto a prendere il tè per sentirla parlare questo inglese perfetto. Ovviamente, scherzi a parte, parliamo della regina Elisabetta. Più perfetto di così l'inglese non può essere. Questo è l'inglese come dovrebbe essere l'inglese della Gran Bretagna. E infatti abbiamo deciso di ascoltare, in realtà ne ha parlato qualche tempo fa perché era il suo discorso di fine anno, ha fatto il suo tradizionale discorso agli inglesi, ma era imperdibile. Abbiamo saltato qualche puntata, abbiamo avuto impegni cinematografici da assolvere, ma questa volta davvero l'ascoltiamo perché vogliamo ascoltare insieme questo inglese perfetto, l'inizio del discorso di fine anno della regina Elisabetta. Each year that passes seems to have its own character. Some leave us with a feeling of satisfaction, others are best forgotten. 2009 was a difficult year for many. In particular, those facing the continuing effects of the economic downturn. I am sure that we have all been affected by events in Afghanistan and saddened by the casualties suffered by our forces serving there. Our thoughts go out to their relations and friends who have shown immense dignity in the face of great personal loss. But we can be proud of the positive contribution that our servicemen and women are making in conjunction with our allies. Well over 13,000 soldiers from the United Kingdom and across the Commonwealth, Canada, Australia, New Zealand and Singapore are currently serving in Afghanistan. The debt of gratitude owed to these young men and women and to their predecessors is indeed profound. Allora, Fabio in regia diceva che sono inglesi anche le campane, perfettamente inglesi. Probabilmente un americano riderebbe tantissimo, anzi sicuramente un americano trova buffissimo questo accento. Ma questo è proprio l'accento della regina. E lei resterebbe scioccata, per esempio, dal mio, che sicuramente considererebbe troppo americano. Ma non è neanche detto, ormai lei è una donna del Commonwealth, quindi accetta tutti gli accenti. Ed è curioso come all'inizio, come definisce gli anni, no? Perché dice ogni anno that pass seem to have its own character. Questo è un po' un false friend, nel senso che non è carattere ma personalità, e quindi ha ragione, cioè alla fine resta un anno, resta sempre caratterizzato da una serie di tratti che ne formano la personalità. Beh, lei rimarrà nella storia per l'imperturbabilità con la quale annunciò il famoso Annus Horribilis, nel quale le capitò di tutto. Alcuni anni ci lasciano delle sensazioni, altri ce ne lasciano altri. Lei lo ripete ancora una volta. Proprio come una persona, no? Ci lasciano questo feeling of satisfaction. Alcuni, some leave us, ci lasciano, esattamente come in italiano. Others are best forgotten. E altri è meglio che ce li dimentichiamo proprio, e questo il 2009 evidentemente lo considera così, perché sottolinea poi i continuing effects of the economic downturn che ha colpito tutto, ha colpito duramente, sappiamo, anche la Gran Bretagna, stracolpita da una recessione innescata dalla finanza. Avevamo sentito anche il discorso di Barack Obama, che aveva puntato moltissimo sui militari, e lo fa anche la regina Elisabetta, pone l'accento proprio sui soldati e sulle missioni all'estero. Subito dopo appunto l'economic downturn, che è stato sicuramente la caratteristica principale del 2009, c'è poi questo "We have all been affected by events in Afghanistan", cioè siamo tutti stati toccati dagli eventi in Afghanistan, che non sono naturalmente la cronaca della guerra afghana, ma saddened by the casualties, to be saddened by something è essere intristiti da qualcosa, sad naturalmente è triste, casualties non hanno niente a che vedere con le casualità, ma sono i morti, le persone che muoiono in guerra e i caduti, diciamo noi. E in Afghanistan ci sono, spiega lei, well over 13,000 British soldiers, quindi ci sono ben più che 13,000 soldati britannici, e ci sono stati molti caduti nell'ultimo anno, così come tra gli americani naturalmente. E quindi lei sottolinea il suo debito di gratitudine, che poi deve essere il debito di gratitudine di tutti i britannici. È proprio un debt of gratitude, lo definisce, quindi un debito di gratitudine owed to this man, to owe something to somebody è dovere qualche cosa a qualcuno, anche del denaro. In questo caso invece è proprio un debito di gratitudine ai men and women. Curioso, molto curioso, che Obama avrebbe messo prima le donne, poi gli uomini, perché in America è molto politically correct citare sempre prima le donne e poi gli uomini, quindi "Oh to these men and women and to their predecessors", quindi ricorda anche i loro predecessori, perché naturalmente sono tanti caduti nelle guerre anche recenti, quelle dopo la Seconda Guerra Mondiale, della Gran Bretagna e del Commonwealth. Appunto, il Commonwealth, lei pone l'accento su questa unione di paesi che un tempo erano tutti sotto la corona britannica, adesso sono legati in maniera un po' diversa, ma lei ricorda la costituzione di questo Commonwealth in un anniversario importante. It is 60 years since the Commonwealth was created, and today, with more than a billion of its members under the age of 25, the organization remains a strong and practical force for good. Recently, I attended the Commonwealth Heads of Government meeting in Trinidad and Tobago and heard how important the Commonwealth is to young people. I think the Commonwealth means unity to us in terms of the fact that we're over 50 countries coming together with an amalgamation of different cultures. It's a model of friendship that is very important in today's world. It's a group of countries that practice human rights and fairness and equality to all. That's what attracts me to Commonwealth. Since this forum, my feeling of what the Commonwealth means is unity amongst the different countries and appreciating diversity and really just creating a family feeling across the world. In the research, what we attempt to do is to acquire accurate and reliable data and information. Allora, è un discorso molto complesso quello della regina, perché è montato con delle interviste. Qui sentiamo delle interviste con persone di accenti diversi e anche colori diversi, perché abbiamo visto le immagini, tutte appartenenti a questo Commonwealth. I cui paesi più importanti, lei dice, it is 60 years since the Commonwealth was created. To be created since, quindi sono 60 anni che il Commonwealth è stato creato, quindi è stato creato 60 anni fa. Naturalmente i paesi più popolosi sono la stessa Gran Bretagna, l'Australia, la Nuova Zelanda, e poi ce ne sono molti altri più piccolini. E però la cosa davvero curiosa è che more than a billion of its members are under the age of 25, quindi più di un miliardo dei membri del Commonwealth, che appunto è un po' nato non dalle ceneri, perché poi l'indipendenza l'hanno avuta anche dopo il 50, molti paesi dopo il 60, però è stato un modo di sostituire l'impero mantenendo alcune caratteristiche, e oggi è pieno di giovani, persone sotto i 25 anni. C'è questa atmosfera un po' così da idillio che si vuole cercare di creare con queste interviste. Molto politically correct, Obama sarebbe contento. E la regina dice: I attended the Commonwealth Heads of Government meeting in Trinidad and Tobago. Heads of Government sono naturalmente le teste dei governi, quindi i capi di Stato, diciamo noi. Quindi questo vertice che c'è stato a Trinidad and Tobago, e dice di aver sentito, anche se sicuramente non era presente, non era lei a intervistare le voci che abbiamo sentito dopo, però dice: ho sentito how important it is to young people. To attend non è attendere, non è aspettare. No, certo, no? Su altro false friend, to attend vuol dire essere presenti a, si usa in occasioni un po' formali, to attend a meeting, quindi andare a un meeting, ma di lavoro oppure appunto di capi di Stato a Trinidad and Tobago. Tutti questi giovani parlano di grande collaborazione, di un modello di friendship, di amicizia e addirittura di una famiglia. Sì, è bella questa cosa del tentativo, secondo questa ragazza, che il Commonwealth rappresenta, di appreciating diversity. E appreciating sì vuol dire apprezzare, ma vuol dire, quando in inglese è usato proprio quando tu vedi una cosa, la riconosci e agisci di conseguenza, quindi accetti la diversità più che apprezzi la diversità, e quindi creating a family feeling across the world, quindi il senso, la sensazione, l'emozione che si prova in famiglia, che poi bisognerebbe forse aggiungere che non sempre le emozioni che si provano in famiglia sono così positive, però insomma questa sensazione di famiglia, grande famiglia mondiale. Un po' come se la regina Elisabetta fosse una sorta di nonna, diciamo così, e infatti una nonna molto comprensiva che vuole continuare a discutere i problemi importanti. Sentiamola. It is important to keep discussing issues that concern us all. There can be no more valuable role for our family of nations. I have been closely associated with the Commonwealth through most of its existence. The personal and living bond I have enjoyed with leaders, and with people the world over has always been more important in promoting our unity than symbolism alone. The Commonwealth is not an organization with a mission. It is rather an opportunity for its people to work together to achieve practical solutions to problems. In many aspects of our lives, whether in sport, the environment, business or culture, the Commonwealth connection remains vivid and enriching. It is in lots of ways the face of the future. And with continuing support and dedication, I'm confident that this diverse Commonwealth of Nations can strengthen the common bond that transcends politics, religion, race and economic circumstances. Beh, un discorso molto moderno, anche proprio come montaggio, come arrangiamento. Credo che qualche anno fa non avremmo mai potuto sentire la regina, immaginiamoci la regina madre, con un sottofondo di musiche caraibiche, appunto di isole che appartengono al Commonwealth. È divertente qui notare subito all'inizio che usa una pronuncia che tipicamente inglese, e neanche di tutti gli inglesi, ma degli inglesi di un certo tipo. It is important to keep discussing issues, mentre gli americani naturalmente dicono issues, io stessa direi sicuramente issues. Comunque issue è questa stupenda parola che è molto versatile, vuol dire sia il numero di una rivista che un argomento. Perciò la regina dice è importante che ci si ritrovi a discutere di argomenti anche all'interno di una cornice come quella del Commonwealth, che non è un'organizzazione, come ha detto prima, with a mission, ma è una, così, una family of nations. Si torna a questo tema della famiglia, ridevamo definendo la regina quasi una nonna, ma è vero, perché lei parla di un suo coinvolgimento personale. Effettivamente 60 anni di Commonwealth, gran parte del suo regno. Dice, I've been closely associated, quindi sono associated, dice lei. Sono stata, insomma, è chiaro, la mia persona è stata associata al Commonwealth perché il Commonwealth è nato con me, quindi è giusto che sia così. E quindi I have a personal and living bond. Bond non sono soltanto i junk bond o James Bond, ma è legame, quindi è un legame personale vivo che I have enjoyed, che mi sono goduta, potremmo dire, per tutti questi anni. Non so se ci inviterà davvero a bere un tè, però devo dire che la regina Elisabetta ha davvero l'inglese perfetto della Gran Bretagna. La salutiamo qui con il suo discorso che abbiamo ripreso ancora dai primi giorni dell'anno. Ringraziamo Fabio Cantadori in regia, vi diamo appuntamento in edicola con il nostro English 24 e insieme ancora alla radio sabato prossimo. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.